Ave Maria a tutti, ragazzi e ragazze carissime. Ave Maria e ben ritrovati su Enze di Radio Buon Consiglio. Sono 2 settimane che non ci sentiamo, la settimana scorsa c'è stato, come sapete, un piccolo stop motivato, penso che sappiate, dall'evento del convegno dei frati francescani dell'Immacolata e delle suore, dedicato, se non vado errato, e io purtroppo non pude essere presente alla Mariologia del Beato Giovanni Paolo II. Come tutti sappiamo, prossimamente sarà elevato agli onori dell'altare, degli altari. Noi riprendiamo il nostro ciclo di catechesi sui 10 comandamenti e da dove ci eravamo fermati, cioè dal 7º comandamento. Vi ricordo brevemente che abbiamo cominciato ad analizzare questo comandamento. E contemplando anzitutto le fattispecie più palesi, quindi i peccati più gravi contro il 7º comandamento, i 2 peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, l'oppressione dei poveri e la frode del giusto salario, della giusta mercede, come preferite, agli operai, e nella puntata scorsa, che è poi è stata l'ultima, diciamo le fattispecie gravi e più conosciute di peccato contro il 7º comandamento, diciamo che hanno dei vari punti di contatto con i reati del codice penale, non soltanto dell'ordinamento giuridico italiano, ma un po' di tutti gli ordinamenti giuridici del mondo, no? Quindi abbiamo visto dal furto alla rapina e poi ad alcuni particolari tipi di peccati e di reati commessi dai pubblici amministratori. Oggi dovremo affrontare un tema un po' spinoso e delicato e quanto mai attuale, perché tutti sappiamo che adesso tirano nuovamente venti di varie crisi di vario genere ecco, e questo argomento sta tornando tristemente alla ribalta, semmai fosse andato in pensione, che è quello delle tasse. Tutti quanti sappiamo che se adesso non fanno qualcosa i nostri governanti siamo, come dire, sotto la scure di un nuovo aumento di una imposta indiretta, che è l'IVA, che a detta insomma degli esperti in economia causerà danni non soltanto sui più poveri, ma anche su certi aspetti insomma dell'economia, rallentando o complicando ulteriormente la ripresa economica del nostro martoriato paese, oggi soggetto a tante questioni. Anche qui vedremo che ci sono alcuni aspetti in cui la legge morale si distingue dalla legge civile. Chiaramente, fermi restando alcuni punti di evidente e palese sovrapposizione, o forse anche giusta posizione, nel senso che purtroppo devo dire subito agli ascoltatori che moralmente parlando bisogna pagare le tasse. Questo l'ha detto Gesù nel Vangelo: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Quindi non ci sono dubbi né obiezioni, ahimè, scherzo chiaramente, in linea di principio. Però, come vedremo, ci sono degli aspetti morali, che tra l'altro bisogna ben comprendere, che non collimano con la legge civile. Già abbiamo fatto altri esempi, no? Ci sono delle fattispecie in cui tu non trasgredisci nessuna legge civile, ma vai incontro a dei gravi peccati da un punto di vista morale, no? Si pensi, per esempio, a non andare a messa la domenica. Non integra assolutamente un comportamento da persona malvagia, da delinquente, da criminale o da disonesta, no? Ecco. Però è molto più grave non andare a messa la domenica che su una strada libera e senza pericoli superare di 20 km il limite di velocità. Solo che se superi di 20 km il limite di velocità e ti acchiappano, ti fanno una super multa con debito di qualche punto sulla patente. Se non vai a messa la domenica non siete niente da un punto di vista civile. Viceversa, da un punto di vista morale, l'abbiamo già visto che non andare a messa la domenica è un peccato mortale e il codice della strada, che comunque deve essere in linea di massima, osservato, da un punto di vista morale, vincola nella misura in cui l'inosservanza di qualche aspetto del codice della strada creasse problemi gravi a me, al prossimo, eccetera. Quindi non c'è una perfetta collimanza. Quindi se io, non lo so, superassi il limite per motivazioni gravissime, non lo so, devo andare a visitare un parente che so essere in pericolo di morte e non ci sono condizioni oggettive in atto che metterebbero a repentaglio la vita mia e del prossimo, non devo andarmi a confessare, anche se c'è una pattuglia che sta facendo i rilevamenti elettronici della velocità, incorrerò in una sanzione amministrativa che dovrò pagare. Ecco, quindi ci sono sempre questi due livelli distinti che si intersecano in alcuni punti, ma si distinguono in altri. Questo dobbiamo tenerlo sempre presente. Allora, io vi devo subito dire che per quanto riguarda questo argomento, trovai assai illuminante uno studio apparso, sarà stato qualche mese fa, su un numero della rivista online Corrispondenza Romana, penso che più di qualcuno la conoscerà, uno studio firmato da Samuele Cecotti, a cui chiaramente se lo trovate online vi do il titolo, questo articolo apparve su Corrispondenza Romana, ma è stato pubblicato sulla rivista Instaurare Omnia in Cristo, Cristo con l'HCHRISTO. E il titolo dell'articolo è Il dovere fiscale secondo la dottrina cattolica. Ecco, a firma di Samuele Cecotti. C'è anche un riferimento di pagina online, di pagina web che posso anche dare se qualcuno ha carta o penna, oppure poi riascolterà sia da Radio Buon Consiglio la registrazione sia dai luoghi YouTube oppure il sito della parrocchia dove poi metterò questa catechesi, che è www.instaurare.org. Poi c'è uno slash XLI maiuscole 1 tutto attaccato punto PDF, pagina 3. Ho trovato questo articolo molto interessante perché fa tutto quanto un excursus scritturistico e teologico, dove si chiede, diciamo, fa questo excursus avendo sullo sfondo due domande a cui si cerca di dare una risposta. Uno, qual è il fondamento dell'imposizione fiscale? Due, se esiste un principio, questo per noi molto importante, di equa imposizione fiscale. E ancora, quali sono le condizioni per cui lo Stato, attenzione, parlando da un punto di vista etico, può e deve esigere il pagamento delle imposte? Ripeto, stiamo parlando di etica, d'accordo? Quindi questo si tenga sempre presente. Allora, vediamo dunque alcuni excursus. Vi ho già accennato il passo evangelico di rendere a Cesare quel che è di Cesare. Ce n'è un altro, sempre nel Nuovo Testamento, stavolta citato dall'Apostolo delle Genti, San Paolo. San Paolo raccomanda l'osservanza della giustizia sostanziale, rendendo a ciascuno il suo. Lettere Romani, capitolo 13, versetto 7. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto. A chi le tasse, a chi il tributo, a chi il timore, a chi il rispetto. E mentre il brano che vi citavo prima di Gesù, famoso rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, lo si trova in tutti i Vangeli sinottici, Matteo 22-21, Marco 12-17 e Luca 20-25. Quindi, sulla base di questi due passi chiarissimi, nessun cattolico potrebbe predicare la rivolta fiscale oppure andare a dire che le tasse allo Stato non devono essere pagate, perché il principio è sacrosanto, d'accordo? E Quindi c'è un dovere morale di pagare le tasse e un diritto potere dell'autorità civile di imporle. Quindi su questo non ci piove. Ora, il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Compendio danno qualche interessante chiarimento sul fondamento, attenzione, di questo potere dello Stato, che, dovendo essere sincero e dire la verità, non bisogna vergognarsi, prima di leggere questo articolo molto ben fatto, non lo avevo così chiaro neanche io. Ora, noi pensiamo che pagare le tasse sia, per questo che lo stiamo trattando in questa sede, fondato sul settimo comandamento: non rubare. Se io non pago le tasse, rubo le tasse, rubo dei soldi allo Stato, non rendendogli ciò che è suo. Questo si pensa comunemente, no? E in realtà non è così. Cioè, perché il comandamento non rubare regola la proprietà dei beni e quindi le condizioni di liceità di proprietà dei beni e di soldi tra soggetti fondamentalmente che si trovano in una relazione di paritarietà l'uno con l'altro. Ma lo Stato può imporre le tasse proprio perché non si trova, da un punto di vista giuridico ed anche etico, su un piano di parità con me. Lo può fare sulla base del rapporto autoritativo che egli ha nei confronti dei cittadini. Quindi lo Stato può imporre le tasse in quanto è un'autorità legittimamente costituita. Vi ricordate quando abbiamo fatto il quarto comandamento, che regola i doveri verso i genitori, ma anche verso tutte le forme di autorità legittimamente costituite? Quindi il fondamento della legittimità dell'imposizione fiscale non è nel settimo comandamento, ma nel quarto. Questo è un primo punto molto, molto, molto, molto importante e ribadito dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Perché se andiamo a leggere con attenzione il numero 2240, troveremo scritto, cito testualmente, l'affermazione che la sottomissione all'autorità e la corresponsabilità nel bene comune comportano l'esigenza morale del versamento delle imposte. E subito dopo segue la citazione della dottrina paolina appena citata, Romani 13,7. Quindi attenzione, quindi la sottomissione all'autorità fondata sul quarto comandamento e la corresponsabilità nel bene comune, quindi il fatto che tutti siamo tenuti a concorrere e a cooperare al bene comune, comportano l'esigenza morale del versamento delle imposte. Quindi chi si sottraesse ipso facto a questo dovere, peccherebbe. Ancora, questo significa, conseguentemente, che il fondamento dell'obbligo di pagare le tasse risiede non nella giustizia commutativa, che ripeto riguarda tutte, la giustizia commutativa è quella che regola i rapporti tra persone che sono sullo stesso livello, ma nella giustizia legale che regola appunto i doveri tra persone che non stanno allo stesso livello. Ora, quando abbiamo studiato il quarto comandamento, abbiamo visto che sono gravissimi i doveri dei figli nei confronti dei genitori, ma abbiamo visto che ci sono anche dei doveri dei genitori nei confronti dei figli. E l'inosservanza grave di alcuni doveri nei confronti dei genitori nei confronti dei figli può comportare in alcune circostanze delle conseguenze, a volte anche molto molto gravi, e che possono in alcune circostanze, come dire, non dico legittimare, ma produrre delle forti circostanze attenuanti ad eventuali inosservanze dei doveri dei figli verso i genitori. San Paolo dice ai figli di essere sottomessi ai genitori, ma dice anche ai genitori: non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. Quindi a suo tempo vedemmo come un'educazione esasperante, per la verità oggi non è questo un problema molto diffuso, magari riguardava più qualche lustro o qualche più di lustro fa, però capite, cioè, il fatto che ci sia un'autorità non vuol dire che non ci siano delle condizioni di giusto esercizio di questa autorità. E se si violano quelle condizioni, l'autorità viene persa. Capite? Questo vale anche la famosa obbedienza canonica. L'obbedienza canonica, che è sacrosanta, è soggetta ad alcune condizioni. Cioè, io devo obbedire ad un ordine oggettivamente giusto. Vi faccio subito un esempio. Io faccio il prete, no? Il vescovo ha piena autorità di foro esterno sul sottoscritto, no? Però per quanto riguarda il cosiddetto foro interno, un vescovo non può dirmi, non può proprio, Cioè, Don Leonardo, segui la spiritualità carmelitana, perché questo è bene per la tua anima. Non potrebbe darmelo come ordine, strettamente parlando, perché questo è ambito di competenza eventualmente del padre spirituale. Se un vescovo desse un ordine di questo genere a un suo sacerdote, starebbe facendo una cosa che esorbita, esula dall'ambito dei suoi poteri e delle sue competenze. Per cui non ci sarebbe nessun fondamento oggettivo nel dovere di obbedienza del suddito, quindi il suddito potrebbe fare esattamente finta di niente, come se il vescovo non avesse detto nulla. Non so se mi so, se, se, se sono riuscito a rendere l'idea. Attenti anche a un'altra cosa importante: i limiti, per esempio, di esercizio del magistero della Chiesa. Cioè, noi sappiamo benissimo che un'autorità ecclesiale, un parroco, cominciamo dalla più scrausa. Un vescovo o un papa, è ovvio che in ogni sua esternazione, atto, discorso pubblico, parla sempre da parroco, da vescovo e da papa. Ecco. Tuttavia, per quanto per esempio riguarda il papa, il peso specifico del papa è grande e in alcuni casi è grandissimo, perché in alcuni casi il papa parla, come dire, come dire, con il crisma dell'infallibilità. Attenzione però, per poter dire questa affermazione del Papa rientra nel magistero infallibile, devono esserci alcune condizioni e devono esserci delle chiare e manifeste, come dire, intenzioni. Pensate che, per parlare del Beato Giovanni Paolo II, quando il Beato Giovanni Paolo II, in un motu proprio, chiuse, e a mio avviso in maniera definitiva, e con l'autorità del successore di Pietro, la questione del sacerdozio delle donne, lui usò dei termini molto forti, che sono esattamente quelli che in teologia si dicono essere le condizioni perché un pronunciamento del Papa possa essere concepito e recepito e interpretato come pronunciamento ex cathedra, e quindi infallibile e reformabile. Perché disse: io, dopo aver meditato nella qualità di successore di Pietro, volendo confermare i miei figli nella fede, i fratelli nella fede, dico che la Chiesa non ha il potere di conferire il sacramento dell'ordine alle donne e affermo che questa sentenza deve essere ritenuta come definitiva. Quindi, più chiaro di così, allora il Papa sta pronunciandosi in una materia morale e di fede, poi non è tanto morale, questo è un problema di fede. Perché il discorso del sacerdozio delle donne è legato semplicemente al fatto che se un vescovo, questo è quello che dice il Papa, ordina prete una donna, vedete i limiti ad ogni potere, anche se recita la preghiera consacratoria, anche se fa tutto quello che vuole, la donna prete non ci diventa, perché l'essere femminile, in parole, non è materia adatta a la ricezione del sacramento dell'ordine sacro. Quindi mentre se il vescovo ordina a me, cioè un maschio battezzato, sacerdote, io sacerdote ci divento, se una donna vuole diventare prete e un vescovo la ordina, fa tutte le preghiere, ma quella donna prete non c'è diventata. Questo è un problema grande, per esempio, con i nostri fratelli della Chiesa anglicana, perché quelle donne fanno le pretesse, ma non sono preti. Questo, attenti, bisogna capirlo bene. Sarebbe come se un prete va a celebrare la messa con i biscotti e con la Coca-Cola anziché con il pane e con il vino. Io posso mica andare a celebrare la messa con i biscotti e con la Coca-Cola, perché Gesù Cristo, che mi ha conferito il potere di consacrare, io posso esercitarlo, appunto, primo dentro la liturgia, no? Ci sono degli esempi, dice: pensate, se un prete si impazzisse, va dentro la panetteria, stende le mani e fa: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allora, che succede? E con l'intenzione di voler consacrare tutto il pane della panetteria. Che succede? Dobbiamo andare a fare, dobbiamo portare una processione di gente a consumare quel pane perché è tutto corpo di Cristo. Attenzione, ha formulato le parole della consacrazione. E supponiamo che dentro quella panetteria ci sia veramente il pane azimo. Che facciamo? Adesso oggi va in giro, va di moda il pane azimo, no? Non è niente consacrato perché non c'è comunque il contesto della liturgia, così come se si porta dietro. E i biscotti e la Coca-Cola, questo non posso farlo. Allora, l'ha detto il Papa, l'ha detto il Papa, l'ha detto il Papa. Ogni cosa che il Papa dice, certamente che è da prendere, da ritenere con dovuto rispetto e con, come dire, religioso ossequio, d'accordo? Perché non è parola di Pinco Pallino, ma è parola del Papa. Ecco, però il Papa non è sempre infallibile, ogni cosa che dice, qualunque cosa fa. Questo, stare attenti che a me mi chiamano la Santa Inquisizione, certamente non è nella mia volontà, nella mia intenzione, come dire, insinuare dubbi vari, però bisogna fare attenzione, no? Anche perché dopo rimaniamo disorientati da un punto di vista della storia, no? Pensate per esempio a Clemente XIV, Clemente no, Clemente XIII, sì, credo che fosse XIII. Ha sciolto i gesuiti quando fu eletto l'ultimo papa. Qualcuno gli disse: ma chiamati Clemente XIV, così ripari il gesto che ha fatto il predecessore che ha sciolto i gesuiti. Vi domando: quel provvedimento del papa era un provvedimento infallibile, benedetto dallo Spirito Santo? No, sicuramente non lo era. Anche perché i gesuiti a quei tempi, speriamo anche oggi, erano davvero santi e tutto, no? Essendo un provvedimento disciplinare, questo ci basta un pochino di riformazione, un provvedimento disciplinare non chiama in causa l'infallibilità del Papa. Quindi potrebbe essere un provvedimento inopportuno, potrebbe essere un provvedimento su cui il Papa è stato mal consigliato, oppure non ha visto bene, perché fuori dei momenti in cui agisce sotto influsso diretto dello Spirito Santo è un mortale, come tutti, per quanto santo possa essere, e per cui pur in perfetta buona fede può prendere una cantonata. Non dobbiamo stupirci di questo, perché il Papa è il Papa, ma non è proprio il Padre Eterno in terra, capite? Cioè, è il vicario di Gesù Cristo in terra, ma lo rappresenta, non è lui, capite? Soltanto Gesù Cristo in terra non si sbagliava mai, qualunque cosa facesse, perché era Gesù Cristo. Non so se riesco a rendere l'idea, no? Ecco. Perdonatemi questo excursus, ma è fondamentale comprendere bene queste cose, cioè i limiti del retto esercizio dell'autorità. I limiti del retto esercizio dell'autorità, che poi condizionano anche gli ambiti in cui si può chiedere ed esigere l'obbedienza. Capite? Quindi vi dico, può un fedele, come dire, opinare, per esempio. Allora, un conto, ripeto, è il rispetto, e anche su questa materia lo dovremmo riscontrare, no? Cioè, è il rispetto e anche l'osservanza delle. Cioè, il Papa fa un provvedimento disciplinare, io non lo condivido, però quello è il Papa, quello è il provvedimento disciplinare, io da prete lo devo rispettare, e lo rispetto, ma non lo condivido. Quindi, non lo condivido vuol dire che posso in qualche modo. Criticarlo, dire l'ha detto il Papa, io obbedisco, ma non sono d'accordo, senza che con questo mi debba andare a confessare. La stessa cosa vale per i provvedimenti, non lo so, disciplinari o pastorali di un vescovo. Poi è un altro discorso da valutare e con molta attenzione se sia il caso in alcune circostanze, cioè se sia prudente dire o non dire una certa cosa, fa riferimento o non fa riferimento a una certa cosa, cioè, capite, ci possono essere delle motivazioni per cui è meglio che mi sto zitto, non esterno alcune cose per non dare scandalo o cose di questo genere, no? Però sto parlando in linea di principio. Qui vi dico subito, se uno dovesse dire l'attuale pressione fiscale, come diremo, d'accordo, che sembra esserci in Italia, è eccessiva, per cui dà un carico che va al di là di quello che è moralmente giusto esigere. Questo non vuol dire che uno incita alla rivolta fiscale, d'accordo? Perché adesso purtroppo questo c'è e ci tocca sciropparsi questa minestra, però possiamo e dobbiamo fare pressione e dobbiamo anche denunciare alcune cose perché qualcuno ci ponga rimedio. Non so se sono riuscito, magari mettendo le mani un pochino avanti, a comprendere quello che poi dovremo fare, no? Ecco, sono le 17, facciamo sempre la nostra pausa di saluto alla Madonna, che ritempriamo l'anima e che ci aiuti ad andare avanti nel prosieguo del discorso. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, per concludere il riferimento, perdonate l'excursus, al Catechismo della Chiesa Cattolica, per la verità qualche riferimento alla materia fiscale lo troviamo anche nella sezione relativa al settimo comandamento, dove si annoverano come condotte immorali relative al fisco, state attenti, il non pagare le tasse, attenzione, non pagare le tasse, d'accordo? E anche la frode fiscale o la contraffazione di assegni e fatture, d'accordo? Allora, primi punti da mettere in evidenza. Al termine di questa prima parte della nostra conversazione. Uno, lo Stato può imporre le tasse ai cittadini. Secondo, il fondamento di questo potere risiede nel suo essere autorità legittima, quarto e non settimo comandamento. Terzo, i cittadini devono pagare le imposte in base ai doveri di giustizia legali fondati sulla pietas, vi ricordate a suo tempo parlammo della pietà, io non sto a riprendere alcune cose, verso lo Stato. Pietà vuol dire doveri di giustizia nei confronti dei superiori. Ok, allora adesso si aprono alcune questioni problematiche. Chiarite queste evidenti precisazioni sul piano dei principi. Allora, le domande sono le seguenti: il diritto dello Stato di imporre le tasse incontra dei limiti oggettivi oppure no? Cioè, esiste da un punto di vista morale un limite di tassazione equa, oltre il quale lo Stato perderebbe il diritto, attenzione, morale, non legale, perché legale lo comunque conserva, di ricevere i tributi? Cioè diventerebbe moralmente ingiusto superare un certo limite. Fermo restando che poi, come dice il Vangelo, se qualcuno ti obbligasse a fare un miglio, fanne con lui due, quindi questo non giustificherebbe atteggiamenti, ripeto, di estremismi o di rivoluzioni. Esiste inoltre, seconda domanda, a fronte del diritto dello Stato di riscuotere i tributi, di cui non è in discussione il fondamento di legittimità, però ha anche un dovere di amministrarli in modo conforme alla giustizia e alla moralità, mancando il quale di nuovo verrebbe a cadere il diritto di esigerli? Dopo faremo alcuni esempi, volutamente provocatori. Ecco. Queste domande si capisce subito, quindi c'è un limite alla tassazione e c'è un dovere di amministrare in maniera giusta e moralmente lecita i soldi di tutti? Punto interrogativo. Mancando il quale verrebbe meno la giustizia da un punto di vista morale nell'esigere i tributi e quindi il dovere di pagarli. Entro tutti quanti quei limiti. Allora, qui ci sono alcuni esempi concreti. Tempo fa, su noti TG nazionali, tra cui, se non ricordo male, Sky TG24, comunque TG nazionali, uscì fuori che in alcune zone del Nord Italia alcuni imprenditori giungono a pagare il 70% del proprio introito di tasse. In Italia la pressione fiscale sfiora da un punto di vista medio La percentuale del 45%, a seconda dei periodi, va dal 41, 42, 43, 44, insomma, sta oltre il 40%. Sono giuste imposte che assumono queste proporzioni, ma anche se uno fosse Rockefeller, tu arrivi al 70% del tributo. Cioè, è giusto chiedere ad una persona 2/3 dei suoi redditi? Ripeto, fosse anche Rockefeller? Punto interrogativo. Altro pensiero. Come mai che aumentano sempre di più le tasse? Ecco. Allora, voi sapete che uno Stato, oggi siamo in uno Stato sociale, il cosiddetto welfare, cioè da un punto di vista, quando uno studia diritto costituzionale, cioè l'esistenza degli stati è cosa, come dire, depositata e conforme alla legge naturale. Chiedo alla regia se è possibile, ho dei ritorni abbastanza fastidiosi da un punto di vista di audio, ci sono delle interferenze, se possono gentilmente provvedere. Riprendo. Uno stato nasce ed è sempre nato fondamentalmente per tutelare dei beni primari fondamentali che è impossibile tutelarsi da soli, che sono 1. La sicurezza, 2. L'ordine pubblico e 3. La retta amministrazione della giustizia. Questi sono proprio i fini propri e imprescindibili dello Stato. Nel corso dell'evoluzione, specialmente contemporanea, sono divenuti, diciamo così, ambiti di tutela diretta e di intervento diretto dello Stato, altre sfere del pubblico vivere civile insieme, che in teoria potrebbero anche rimanere fuori dai suoi fini diretti e dai suoi confini ed essere amministrati dai privati, ovviamente all'interno delle leggi decise da un certo Stato. Faccio un esempio, la sanità, per esempio. I trasporti, ci cioè sono i trasporti pubblici oggi, le scuole, c'è cioè la scuola pubblica. Ovviamente, se tu aumenti il carico di fini che tu ti prendi, evidentemente che poi avrai bisogno di soldi per amministrare queste cose e quindi dovrai chiedere sempre più soldi ai cittadini per gestire sempre più cose. Questo tipo di procedimento è giusto o comunque a un certo punto incontra dei confini? Attenzione poi, anche quando come dire, c'è un riverbero di questo genere, cioè tu Stato ti prendi come compito la scuola, ma la scuola è un'agenzia educativa fondamentale, perché la scuola non si impara soltanto una cultura fredda, asettica, imparo a leggere, a scrivere, a fare i conticini, i pensierini. La scuola è educazione. È parte integrante del processo educativo di un giovanotto. Io che sono il padre e la madre, vorrei e devo avere il sacrosanto diritto di poter giudicare se l'educazione che tu, Stato, dai a mio figlio mi piace e ci sono d'accordo. E se questo non c'è, devo essere messo in condizioni di poter optare per una soluzione differente. Per esempio, questo oggi, ahimè, non è consentito, carissimi ascoltatori, perché se un genitore vuole mandare un figlio a una scuola cattolica, deve pagare 2 volte, non una. Giusto questo? Capite? Sto parlando di giustizia, sto parlando, quindi vuol dire che nelle sedi opportune, ecco, anche tutti quanti politici, invece di stare sempre a litigare, alcune questioni, queste sono questioni di principio, gravi. Vi faccio ancora un altro esempio, l'ho detto anche durante tante omelie. Cioè, allora, è giusto che lo Stato che consente affari suoi e dei politici che hanno sottoscritto alcune cose di compiere dei crimini con il suo consenso e con il suo permesso. Pensate all'aborto. Lo faccia con i soldi del Servizio Sanitario Nazionale, cioè una persona che va a abortire lo fa gratis. Così come riceve gratis le cure una persona, perdonatemi l'esempio, che ha un tumore. Scusate, se io sono ben felice di dare i soldi e anche tanti, d'accordo, per la sanità, perché ritengo, questa è una cosa personale, che la sanità, ecco, È bene che sia garantita a tutti, perché se è un poveraccio gli viene un tumore, che non c'ha i soldi per pagarsi l'assicurazione, voglio vedere se la mette. Però io ritengo assolutamente non corretto che per compiere un crimine, e tu non puoi dire che va bene, tu dici, questo è un crimine per te che sei cattolico, per me Stato non lo è. A parte che su questo ci sarebbe molto da discutere, e si può e si deve discutere, ma tu comunque mi devi rispettare. Perché a me mi viene il mal di stomaco a pensare che con i miei soldi si possano pagare le procedure per un aborto, e non sono 50 centesimi per fare un aborto. Punto interrogativo. Allora, supponiamo che un titolare di un'azienda si trova in difficoltà e non riesce, come dire, per ragioni oggettive, sto facendo discorsi, ripeto, da un punto di vista morale, anche di gerarchie. Allora io mi trovo, ci sta la crisi, non riesco a barcamenarmi su tante situazioni, non ce la faccio, d'accordo? A rischio di andare al collasso. Quindi ho tutti gli stipendi degli operai che devo pagare fino all'ultimo centesimo, e c'ho una caterva di tasse da pagare fino all'ultimo centesimo. Allora, di ottemperare ai miei obblighi fino all'ultimo centesimo a tutti e due non ce la faccio. Qual è quello che viene prima? Punto interrogativo. Noi abbiamo capito, dato che la frode del giusto salario degli operai grida vendetta al cospetto di Dio, attenzione, se stai in questa alternativa, come dire, pressante, cioè che proprio non ce l'hai, non è che non lo vuoi fare, non ce l'hai, che cosa devi fare? Prima paghi gli stipendi agli operai. E poi paghi tutte quante le tasse che puoi fino a quando puoi. Capite? Ma se non ce l'hai, che fai? Oppure l'esempio classico, ne parlammo tempo fa tra preti, no? Ti arriva un piccolo commerciante oggi, in difficoltà, d'accordo? Sono casi, insomma, che possono succedere nella vita comune. Voi sapete che i pastori in cura d'anime ne sentono tante di storie, no? E questo ti dice. Padre, cioè, se uno fosse ligio, come dire, con l'attuale, come dire, grado di pressione fiscale che c'è, e scrivesse tutto fino all'ultimo centesimo proprio a fare il cittadino modello al 100%, d'accordo? Io le dico, padre, che se facessi così, uno, fallirei, andrei a zampa all'aria, come si dice volgarmente, e secondo, non avrei di che campare la mia famiglia. Allora che faccio? Qualcuno se faccia una telefonata e mi dia una risposta, questi sono casi gravi da confessionale, no? Che faccio? Non mi faccio più la comunione perché sono un evasore fiscale, perché non pago fino all'ultimo centesimo tutte quante le tasse, quindi non mi posso confessare perché non mi posso manco pentire perché non posso fare altrimenti. Oppure ci avrò una scusante davanti al nostro Signore, certamente se c'è un'attività florida. Che mi bastano per una vita dignitosa, che tiro fino all'ultimo centesimo. Ma se questo non ce l'ho e non lo posso fare, che faccio? Allora, voi capite che cioè, quando tu ti trovi in situazioni di questo genere, cioè, diventa complicato, perché certamente un conto è la legge generale astratta. Ecco anche alcuni esempi che a volte non lo capiscono tanto, tanto, tanto bene, che fa il Papa. Io adesso sto cercando di circoscriverli, no? Però quando tu ti trovi poi a parlare con le persone, ti trovano, cioè, un conto sono i principi generali su cui non si discute, un conto è l'applicazione particolare di quel principio in certe circostanze. Adesso un'altra cosa che è successo, avete visto che è già intervenuto il garante della privacy, cioè è giusto, allora, lo Stato certamente ha diritto di tutelarsi e di difendersi perché ci sono delle forme gravi. E con delle gravi conseguenze di evasione fiscale, ma è giusto introdurre una legge come quella che è stata introdotta poco tempo fa, ragazzi e ragazze carissime, non so se l'avete seguita, il cosiddetto redditometro. Telegiornale di 5 giorni fa è intervenuto il garante della privacy, ha instaurato un contenzioso per farla abolire. Pochi avevano parlato contro questa cosa, cioè io sono un cittadino, io ho il mio conto corrente bancario, cioè allora lo Stato che cosa può fare? Senza che io lo sappia, può chiedere alla banca di dargli la lista dei movimenti, ma vi rendete conto? In entrata e in uscita, E poi può controllare se questa entrata e uscita, se c'è una sperequazione rispetto a quello che denuncio di oltre il 20%, io sono un cittadino sospetto perché sicuramente faccio evasioni. Quindi una volta, due volte, tre volte e poi mi possono fare un'interrogazione e dirmi: ma come mai tu spendi questi soldi in più rispetto a quelli che guadagni? Dico, signori miei, ma cioè io che... Cioè, oh! Ma manco negli stati ultracomunisti venivano fatte cose di questo genere. Questo è peggio, insomma, di un regime di polizia tributaria. Cioè, ci sta il segreto bancario, ci sta la mia privacy, no? Allora, capite che queste cose sono tutti quanti esempi limite, però noi dobbiamo dire qualcosa, dobbiamo dire, no? Certo che io non ci posso fare niente come cittadino, che fanno una cosa di questo genere, me la tengo, subisco, perché comunque sia non si possono poi fare delle, non si può diventare fuori legge, però queste cose sono cose profondamente ingiuste e bisogna denunciarle, bisogna dirle, no? Bisogna assolutamente creare, e che i cittadini su questo e che i politici su questo lavorano senza slogan e senza frasi ad effetto, però... Cioè, ci deve essere necessariamente una riforma che porti a un regime equo, cioè che i cittadini paghino volentieri le giuste tasse senza che questo debba diventare una sorta di incubo per il cittadino. Va bene, allora, vi faccio subito un esempio. In questo articolo, viene addirittura riportato il pensiero di un cardinale di Santa Romagna Chiesa, che è un canonista esperto e indiscusso di fama internazionale, tra l'altro originario della Ciociaria di queste parti, che è il cardinal Velasio De Paolis, che rispondendo all'esortazione di un noto politico, non voglio fare nomi, già presidente del Consiglio, ecco, che esortava i confessori ad essere più attenti al peccato di evasione fiscale, attenzione, peccato che quando c'è, perché le tasse si devono pagare, ecco. Però io faccio la domanda provocatoria, non do la risposta, eh. Gli esempi limite che ho fatto, vediamo se gli ascoltatori o se quel politico va in confessionale, glielo vada a dire lui a quello che è un evasore fiscale, a quel poveraccio che dice che se scrive fino all'ultimo scontrino, fino all'ultimo centesimo con l'attuale sistema fallisce e te lo dice in coscienza e non c'ha da portare pane ai figli. Vaglielo a dire tu che sei evasore fiscale. D'accordo. Quindi il cardinal De Paolo ci disse: il legislatore ha il diritto di imporre le tasse. Ecco, l'argomento delle tasse è sempre un argomento scontante, quindi si vede anche dalle molteplici interferenze che c'ha questa trasmissione. Allora, basta che poi non ha come effetto che si capiscono male questi punti un pochino delicati che sto cercando di puntualizzare e spiegare nel migliore dei modi. Comunque, il cardinal De Paolis diceva, opponendo una risposta a questo noto politico, ripeto, già presidente del Consiglio, che esortava i confessori a essere più attenti al reato di evasione fiscale, disse due cose: il legislatore ha senz'altro il diritto di imporre le tasse, lo abbiamo visto, e il cittadino ha il dovere di pagarlo, ma a due condizioni. Il governo deve usare bene quei soldi, se li usa male o se la tassazione è eccessiva, viene a mancare tale presupposto. Io vi posso dire che ho delle persone che conosco che sono in Inghilterra, non ho una notizia verificata, però non vedo perché debbano mentire, forse hanno capito male, però ci vivono in Inghilterra e dicono: vedete, in Inghilterra funziona così, ci sono due aliquote fiscali, due, fino a un certo reddito e oltre un certo reddito, il 23 e il 33%. Tu vai, ti presenti quando è ora di pagare le tasse agli uffici competenti con tutta la dichiarazione dei redditi che hai fatto, loro ti fanno una stima immediata e ti calcolano immediatamente la percentuale. La paghi e è finito il discorso. Attenzione, paghi le tasse tra l'altro su quello che hai realmente percepito e incassato. Ecco. Pensate a tutto quello che avveniva, adesso non so com'è la legislazione attuale, però quando io lavoravo come avvocato, io l'ho fatto in passato. Quindi c'è stato un periodo in cui sicuramente era così, spero che sia cambiata questa cosa. Allora, pensate, un'impresa fa un lavoro, emette fattura, E alla fine del mese sia che ti hanno pagato che non ti hanno pagato la fattura, devi portare, allora era il 19%, il 18, 19 forse, per cento di IVA. Si arrabbia la linea perché oggi o ieri oggi scatta l'aumento dell'IVA, mi sa, quindi ecco, stavo parlando di IVA. Bisognava portare subito l'IVA allo Stato e tu non avevi magari incassato quei soldi. Pensate a una fattura, non lo so, di 100.000 euro. E tu devi portargli il 19% dell'IVA, cioè 19.000 euro. Tu quei soldi non li hai incassati. Quindi capite che potrebbe anche questo comportarti dei problemi grossi, no? Quindi è giusto prendere l'IVA? Sì, ma se fosse ancora così, io direi subito, dico, facciamo qualcosa. È giusto prendere l'IVA sulla fattura pagata. Perché se quello poi non ti paga. Capite? Io non, ripeto, un tempo era così. Non so come sia adesso, spero che sia cambiata questa cosa, perché dopo si capisce subito come fanno ad andare alla zampa all'aria, adesso non mi ricordo gli ultimi numeri, 112 imprese al giorno che vanno a chiudere, sono numeri drammatici, sono. Qui bisogna stare attenti, capite? Perché tasse, tasse, tasse, però poi i politici di queste cose ne rispondono davanti al Padre Eterno, perdonatemi se dico così, perché tu una persona l'hai oppressa, l'hai, e quel poraccio chiaramente stretto su queste cose, anche perché se t'azzardi a non fare una cosa del genere ci sono delle conseguenze gravissime, anche penali, che fai? Capite che bisogna stare un pochino attenti su questa materia. Con tutte queste considerazioni non si vuole fare altro che porre dei problemi, d'accordo? E quindi favorire anche nei cattolici che devono essere formati, allora, a posizionare bene i problemi. E anche un'altra cosa, insomma, no? Perché oggi, santo cielo, l'ho già detto in altre questioni, quando parlavo del settimo comandamento. Qual è l'unico peccato che esiste al mondo? Rubare e l'evasione fiscale. Per carità, sono cose che non si devono fare, però scusate, no, cioè, c'è solo questo. Non si sente più il peso cioè, di cose moralmente più gravi, di comandamenti che vengono prima nella scala gerarchica. Non sta l'aborto, ci sta il divorzio. Ci stanno libere convivenze, ci stanno le contraccezioni, ci stanno i nudismi, ci stanno le fecondazioni assistite. Ci sono una volgarità che fa venire il volto a stomaco dovunque uno si gira. Televisioni che hanno superato veramente il limite del sopportabile. Qui chioso una frase che Benedetto XVI disse nella liturgia: programmi spazzatura, programmi immondizie, Grandi Fratelli e tutte queste cose del genere, no? Proprio la trash TV. Certo, c'è anche il problema dell'evasione fiscale, però se uno circostanza c'è anche il problema grosso è che deve essere risolto, non demagogicamente, ma comunque il problema c'è. E non si può semplicemente dire, noi abbiamo i parametri dell'Europa, abbiamo i parametri dell'Europa, ci dobbiamo rientrare, e questo si fa sempre a scapito di tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, che non si vede mai il fondo, non si vede mai la fine. Cioè, destra o sinistra, a noi non ci interessa chi sta, cioè chiunque sia, perché comunque il politico è un uomo che risponde davanti al Padre Eterno. E ci deve pensare a queste cose qui, deve sentirli come problemi, non può continuare a andare avanti su questa solfa, tasse su tasse su tasse su tasse su tasse, redditometri, redditometri, redditometri, redditometri, accertamenti fiscali, accertamenti fiscali, accertamenti fiscali. Poi il cittadino vede che qualche politico si mette i soldi in tasca, cosa? Ma come pretendi? Cioè, speriamo l'ultima interruzione che stiamo andando verso la fine. Quindi non si può poi pretendere che, ovviamente, ci sia, come dire, un atteggiamento assolutamente tranquillo e lineare, no? Ecco, questa materia è indubbiamente grave e seria. Ecco. E però a fronte, ripetiamo, dei doveri sacrosanti e biblicamente fondati e intangibili e anche morali dei cittadini, esiste anche un dovere da parte delle autorità dello Stato, che sono concretamente gli uomini di governo, di fare in modo, uno, che la tassazione sia equa. Ecco, equa. Equa. Due, e i numeri che si sono adesso in giro, a detta della maggioranza dei moralisti, non sono equi. Perché perché il numero intorno a cui, diciamo, ruota comunemente, quindi questo non è un dogma di fede, il criterio di equità è un terzo, cioè lo Stato ti può chiedere di contribuire e tanto è fino a un terzo di quello che tu percepisci, e è tanto già, il 33% non è poco, è tanto, ma arrivare al 40, 41, 42 o in alcuni casi estremi fino al 70, per quanto è giusto il principio, e questo è moralmente fondato, della proporzionalità contributiva, ma certamente che il poveraccio non arriva al 33%, arriverà al 10 forse, o al 5, o se sta proprio al di sotto, a zero, non le paga proprio le tasse, se sta proprio sulla soglia, non le paga, perché c'è bisogno di chi aiuta a lui, che fai? Aiuti a te. Quindi dentro questo principio della proporzionalità tu arrivi a degli estremi, ma anche una persona che ci abbia, cioè, se poi quella persona c'ha tanto, noi dobbiamo ricordare che moralmente parlando, l'abbiamo già visto nella prima puntata, è tenuta. È eventualmente tenuta davanti a Dio a fare oltre quello che ti chiede l'imposizione fiscale, perché l'imposizione fiscale, facciamo sempre attenzione, è, stante alla teoria classica sui principi dello Stato, quel minimo etico di adempimento del tuo dovere di cooperare al bene di tutti. Ma se tu c'hai di più davanti al Padre Eterno, quel minimo etico non basta. Il Vangelo di domenica scorsa, forse dovrei fare anche qualche altra cosa, ma quella qualche altra cosa tu la farai in base alla tua libera coscienza, nella consapevolezza del principio della destinazione universale dei beni e del fatto che Dio non gradisce sperequazioni di beni così gravi, che ci sia chi se la gode e chi fa la bella vita e chi muore di fame con i cani che gli leccano le piaghe. Il Vangelo di domenica scorsa. Ecco, ma non tutto è gestibile e perseguibile attraverso le maglie dell'imposizione fiscale, che ripeto, per essere moralmente fondata, deve essere equa e deve essere anche rettamente e santamente amministrata. Ricordando, ripeto, le parole che ho citato non sono mie, sono virgolettate di un noto canonista internazionale, cardinale di Santa Romana Chiesa Cattolica, con cui concludo recitandole: il legislatore ha il diritto di imporre le tasse, il cittadino ha il dovere di pagarle, ma il governo deve usare bene quei soldi. Se li usa male o se la tassazione è eccessiva, viene a mancare il presupposto. Con l'aiuto dell'Immacolata, sperando che quando affronteremo materie un po' più leggere ci siano meno interferenze, vi do appuntamento, ragazzi e ragazze in ascolto, alla prossima settimana. Ave Maria.